Perfetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Migranti, la Guardia Costiera dice soccorrere è un dovere, le ONG ci aiutano, dal CSM sostegno alle indagini di Catania, ma anche un appello al riservo. Legittima difesa, primo via libera oggi alla Camera dei Deputati, nella legge il diritto a sparare agli aggressori, ma solo di notte, ora tocca al Senato. L'ambulante è morto a Roma durante il blitz, si indaga per omicidio colposo, la comunità senegalese manifesterà domani. Call center ha firmato dai 13 committenti principali il protocollo per la rilocalizzazione in Italia. Almeno l'80% dei servizi dovrà essere effettuato nel nostro paese. Morbillo, i casi continuano ad aumentare. Solo in aprile sono 385, 5 volte quelli dell'anno scorso. Grave disinformazione, dice la ministra Lorenzin. Annuncio da Buckingham Palace, stop a tutti gli impegni pubblici per il principe Filippo, consorte della regina. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo, 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp e poi c'è la nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno dalla quale andiamo in diretta, diretta anche video, diretta dalla quale ieri ho appreso che ci ascoltate praticamente da ogni parte del mondo, ci avete scritto da Canberra in Australia, Buenos Aires, Vaduz in Lichtenstein, Patagonia, e poi mi sono arrivati tantissimi altri messaggi da San Paolo, Saro che ci scrive da Shanghai, Chiara da New York, Francesca da Londra, Danny da Brazzaville, Valentina da Ginevra, Marco da Melbourne e Carmela che adesso sta in Kazakistan e prima ci ascoltava da Città del Messico. Va bene, continuate a scriverci, seguite anche il live sulla nostra pagina Facebook. Iniziamo dunque il nostro giro delle notizie partendo dalla vicenda ONG Migranti. Il Consiglio Superiore della Magistratura assicurerà ogni sostegno possibile affinché il procuratore di Catania Carmelo Zuccaro porti avanti le sue indagini. Zuccaro potrebbe essere chiamato a spiegare al CSM le sue parole sui presunti rapporti tra trafficanti di esseri umani e ONG, ma almeno per ora non corre il rischio di trasferimento d'ufficio. Il comitato di presidenza del CSM disporrà poi norme per frenare le dichiarazioni ed esternazioni da parte dei magistrati che hanno creato sconcerto nell'opinione pubblica. Intanto sono continuate oggi le audizioni in Parlamento. Al Comitato Schengen sono intervenuti i rappresentanti di MOAS, l'ONG maltese che è chiamata in causa in un'intervista proprio da Zuccaro. I categorically deny any form of contact with smuggling networks or people. Smentisco categoricamente ogni forma di contatto con reti di trafficanti, ha detto il responsabile delle operazioni Jan Ruggen, il quale ha sottolineato che i movimenti delle loro navi sono sempre coordinati dalle autorità italiane. Una conferma arriva anche dal comandante generale della Guardia Costiera, l'ammiraglio Vincenzo Melone, che ha parlato in commissione difesa al Senato. L'affermazione più volte ripetuta innanzi a questa commissione dai rappresentanti delle organizzazioni non governative auditi, secondo cui le unità navali delle ONG opererebbero sotto il controllo della Guardia Costiera è corretta? Il presidente dei Medici Senza Frontiere invita a guardare piuttosto ai costi e all'inefficacia di Frontex e non esclude azioni legali per tutelarsi. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E su tutto questo c'è naturalmente anche un fronte politico. La voce che si leva più forte oggi è quella del presidente del Senato Grasso. Sentiamo. La magistratura farà piena luce su eventuali opacità, non giudico l'operato di Zuccaro. Il presidente del Senato, Pietro Grasso, interviene così nella polemica sul caso migranti e organizzazioni non governative. Le ONG, dice, hanno svolto sostanzialmente una funzione pubblica a favore dell'Unione, garantendo servizi che avrebbe dovuto assicurare Bruxelles e hanno operato in sinergia con le autorità. L'Italia, intanto, annuncia il ministro degli Esteri Alfano, il 6 luglio ospiterà una riunione ministeriale internazionale sull'emergenza migranti. La conferenza promossa ad Alfano in occasione della presidenza italiana del G7 sarà allargata ai rappresentanti della Libia, ai paesi di transito dei migranti, ai partner UE, all'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni e all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Il 10 maggio sarà invece il centrodestra a organizzare a Roma un dibattito su migranti e sicurezza. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Torniamo adesso a parlare di legittima difesa, oggi la legge della quale tanto si discute, della quale avete sentito parlare anche poco fa in Melog di Gianluca Nicoletti, ha ricevuto il primo via libera della Camera. Sentiamo Alessandra Schepisi in diretta da Montecitorio. Alessandra, ciao. Sì, ciao Disco Verde, 225 sì, 166 contrari e 11 astenuti, avvenuto in un clima surriscaldato dell'aura della Camera, con le opposizioni che hanno protestato al grido di vergogna, vergogna, Matteo Salvini che è stato allontanato dall'aula. Un provvedimento sul quale si è invece registrata la convergenza della maggioranza, PD e centristi, inizialmente anche Forza Italia aveva votato alcuni emendamenti, ma poi ha ritirato il voto perché ha ritenuto il testo troppo blando. Ma cosa cambia con questo provvedimento che, ricordiamo, deve comunque affrontare un altro passaggio in Senato? In sostanza si amplierebbero le maglie della legittima difesa, potrebbe non essere più punito chi in casa di notte reagirà in preda ad un grave turbamento, anche sparando, chi insomma dunque ad un assalto violento con minaccia e inganno che mette a rischio la sua incolumità fisica e quella dei suoi cari reagisce. Vale sempre però il principio della proporzionalità tra difesa e offesa, ma, e forse questa è la vera novità, il magistrato avrà uno strumento in più per valutare con un proscioglimento tutti quei casi limiti che attualmente invece finiscono con una condanna per eccesso colposo di legittima difesa. Per le opposizioni, che da sempre invece chiedono la presunzione di proporzionalità, cioè sostengono che la difesa sia sempre legittima, è solo fumo negli occhi, nessuna modifica rispetto alla legge attuale. Sentiamo Matteo Salvini. È l'ennesimo affronto di un governo clandestino che arma i ladri e disarma i cittadini. In Italia si può rubare, scippare, rapinare, violentare di giorno, perché ti puoi difendere solo forse di notte. Siamo al delirio, speriamo che vadano a casa il prima possibile. Con la Lega al governo, una legge finalmente seria sulla legittima difesa, come nel resto del mondo, sarà fatta. Una legge ipocrita e imbroglione, ha commentato invece Brunetta, Forza Italia. Da Montecitorio è tutto, a voi studio. Grazie dunque ad Alessandra Schepisi. Ci sono ancora polemiche e proteste dopo il blitz della Polizia Municipale di Roma avvenuto ieri, mentre proseguono le indagini sulla morte di un ambulante senegalese. Giorgio Stamatopoulos, buongiorno, dove ti trovi? Giorgio, che cosa ci puoi raccontare? Vai. Buongiorno, buongiorno Simone, mi trovo a pochi metri dal ponte dove tutto appunto è successo. E oggi è insolitamente deserto, non c'è nessuno degli ambulanti che di solito lo affollano, solo il tranquillo viavai di turisti e residenti. Ma come ricordavate nei titoli, oggi sulla vicenda l'aggiornamento più importante riguarda la decisione del PM di Roma di aprire un'inchiesta per omicidio colposo, al momento ancora contro ignoti, ma come sapete anche le versioni continuano ad essere contrastanti su quanto è successo ieri. Da un lato gli altri ambulanti africani che hanno raccontato, nessuno è il testimone diretto in questo senso, ma hanno raccontato che uno dei mezzi della Polizia Municipale che stava effettuando appunto i controlli antiabusivismo avrebbe investito l'uomo durante la fuga. Una versione però, come sapete, smentita dalla questura, ma anche dal comando dei vigili urbani, che ha parlato di una circolare che da qualche mese impone appunto ai vigili urbani di non inseguire gli ambulanti, ma di limitarsi al sequestro delle merci ove possibile. Ieri alla notizia circolata subito tra gli altri ambulanti africani della prima versione è scoppiata la rabbia, una manifestazione spontanea che ha bloccato il traffico sul Lungotevere per qualche ora, e poi l'intervento delle forze dell'ordine ha portato tutto alla normalità. Di un'altra manifestazione si parla in queste ore, questa volta autorizzata, e che non potrà avvenire prima di domani proprio per ottemperare alle necessarie autorizzazioni. Intanto si può già dire che insomma Niam Maghet, 54 anni, era in Italia da almeno 20 anni e lascia una moglie e due figlie, è morto per poche decine di euro di merce contraffatta. Questi per il momento sono i principali aggiornamenti sul caso. Ti ringrazio, grazie a Giorgio Stamatopoulos, vedremo come evolverà la situazione. Abbiamo provato a contattare la Polizia Municipale per sapere qual è la loro posizione, oggi hanno deciso di non parlare, anche correttamente in una giornata come questa nella quale si sta muovendo la magistratura. Passiamo a parlare di call center, perché è arrivato il via libera oggi al protocollo tra i grandi committenti. Sentiamo. Abbiamo gettato un'ancora di protezione sociale in un momento particolarmente delicato e in un settore, ripeto, con un'intensità di lavoro particolarmente importante. Con queste parole il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni sottolinea la firma del protocollo d'intesa sui call center e precisa: sostenere la società aperta e il mercato non significa ignorare l'esigenza di proteggere il lavoro, un lavoro che sta diventando sempre più stabile, secondo il Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda. Un settore che ha una particolare complessità, non è in Italia un punto d'ingresso al mercato del lavoro per pochi anni, ma spesso rimane l'occupazione per molto tempo, un'occupazione per tante persone che hanno difficoltà a ricollocarsi. Si tratta di un primo passo sulla strada di politiche di settore che occupa 80.000 persone e che si chiedono da anni per i call center. Un passo avanti, volontario, perché riguarda 13 aziende di peso del comparto, il 65% del totale, per rinforzare l'ultima novità sul fronte della tutela del lavoro in Italia. L'abbattimento dei costi ha determinato infatti una delocalizzazione sempre più considerevole. Dal 1 aprile, invece, l'operatore di un call center collocato in un paese extraeuropeo deve fornire al cliente che lo richiede la possibilità di parlare con un operatore in Italia o in Europa. Il protocollo infatti impegna a tenere in Italia almeno l'80% di chiamate in outsourcing. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. Ci occupiamo di morbillo adesso, perché sono stati diffusi oggi dei dati per quanto riguarda aprile dall'Istituto Superiore di Sanità, e che sono dei dati ancora una volta allarmanti. Indicano che i casi sono quintuplicati rispetto all'aprile dell'anno scorso. Siamo in linea con Caterina Rizzo, proprio dell'Istituto Superiore di Sanità. Buongiorno Rizzo, benvenuta. Buongiorno, buongiorno a lei e buongiorno a tutti. Allora, quanti sono stati i casi di morbillo in aprile? Allora, da gennaio ad aprile in totale abbiamo circa 2000 casi, 1920 diciamo, quindi possiamo dire già circa 2000 casi di morbillo segnalati al sistema di sorveglianza nazionale. La maggior parte di questi casi sono stati segnalati da 7 regioni, in particolare il 90% di questi casi da 7 regioni, e tuttavia in questo momento l'epidemia è, possiamo dire, a livello nazionale diffusa, e sta continuando a diffondersi in maniera importante. E come si diceva, in aprile sono 5 volte rispetto a quelli dell'anno scorso, sono 380, più di 380 solamente nel mese di aprile. Quali sono i luoghi in particolare che vi preoccupano di più, per quanto lei, come lei ci ha detto Rizzo, si tratta di una questione nazionale ormai? Esatto. Sì, è vero, rispetto all'anno scorso siamo in corso di epidemia e questo lo sappiamo perfettamente, il numero di casi è molto elevato e siamo il secondo paese in Europa come numero di casi riportati dal sistema di sorveglianza europeo. Le regioni che sono in questo momento che ci preoccupano di più sono, come dicevo, 7 regioni, Lazio, l'Abruzzo, il Piemonte, la Sicilia, la Lombardia, il Veneto e la Toscana, che in questo momento, in particolare questa settimana, ha rilevato un gran numero di casi rispetto alle regioni che, diciamo, già da gennaio stavano segnalando moltissimi casi. Attribuite tutto questo al calo delle vaccinazioni che si è registrato in questi anni? Sì, diciamo che per il morbillo non è stata mai raggiunta quella soglia del 95% necessaria per eliminare il morbillo. Degno di nota da dire il fatto che ci sono l'88% di questi casi non aveva ricevuto proprio il vaccino in assoluto, e l'8% ne aveva ricevuto una sola dose, che come sappiamo non è sufficiente a bloccare la trasmissione del morbillo. Quindi c'è da dire che il 90% di questi soggetti non era vaccinato, e questo è ovviamente il risultato anche di tutte queste campagne nei confronti del vaccino contro il morbillo, parotite e rosolia, diffamatorie, quando il vaccino è un vaccino, ricordiamolo, sicuro ed efficace per la prevenzione della malattia. L'ultima domanda che le voglio fare, Rizzo, perché ce lo chiedono sempre gli ascoltatori e glielo chiedo da esperta, è quella percentuale di casi nei quali abbiamo persone vaccinate che però contraggono la malattia, da cosa dipende? Dipende fondamentalmente dal fatto che nessun vaccino è efficace al 100%. Nel caso del morbillo, il vaccino con 2 dosi è efficace al 99%, e chiaramente quell'1% in cui non è efficace, siccome il morbillo è una malattia molto trasmissibile, può prendere comunque la malattia. La ringrazio, grazie a Caterina Rizzo dell'Istituto Superiore di Sanità per essere stata con noi. Torneremo a parlarne più avanti, ne parleremo proprio con l'assessore alla sanità della regione Toscana, dove nell'ultima settimana ci sono stati 5 bambini che sono arrivati in ospedale al Meyer di Firenze con il morbillo, e sono 5 bambini in età prevaccinale, che quindi non potevano essere stati vaccinati perché c'è un'età oltre la quale va fatto il vaccino, prima della quale non si può essere vaccinati, e probabilmente probabilmente l'hanno contratta da qualche bambino che invece non si era vaccinato. Andiamo a sentire cosa succede a Londra, dove il principe Filippo lascia tutti gli impegni pubblici. A 96 anni forse era arrivato il momento del ritiro e ognuno di noi, a dir la verità, ci metterebbe la firma. La strana mattinata di fibrillazione a Buckingham Palace, in cui si era ipotizzato un po' di tutto, alla fine si è chiusa così, con l'annuncio scritto del ritiro dalla vita pubblica del principe Filippo, 96 anni, dall'autunno prossimo. I furgoni delle TV erano arrivati davanti alla residenza reale già dalla primissima mattina. Notizie di stampa avevano parlato di una riunione molto insolita, dopo la quale ci sarebbe stato un annuncio imminente. A movimentare il tutto poi ci ha pensato anche il Sun, che ha pubblicato per errore sul suo sito la notizia della morte di Filippo. Pagina di prova messa in rete per sbaglio e ritirata poco dopo, ma tanto è bastato per agitare ancora di più tutti. Eppure solo ieri Filippo, in splendida forma, aveva inaugurato un impianto di cricket. Il duca di Edimburgo è il consorte reale da più tempo in attività della storia britannica. Ritiro ufficiale da agosto, ma salute permettendo, mi sa che potremo rivederlo il prossimo 20 novembre, quando la coppia reale celebrerà il 70° anniversario di nozze. Anna Rita D'Ambrosio, Radio 24, Il Sole 24 Ore. A chiudere, uno spazio dedicato alla vittoria della Juventus di ieri. Io non penso agli altri, penso a me, alla Juve, e a fare felice la gente, felice di tutto, della squadra, per me e di quello che hanno avuto la fiducia in me da sempre. Nel segno del Pipita è Gonzalo Higuaín il nuovo principe di Monaco, e lui a spingere la Juventus a un passo dalla finale di Champions il 3 giugno a Cardiff. Porta infatti la firma del bomber argentino la doppietta con cui i bianconeri sbancano Monte Carlo. Al 29esimo il Pipita conclude con un destro in diagonale, un contropiede da favola orchestrato da Dybala e rifinito da Dani Alves, e al 59esimo ecco il 2-0 in spaccata su cross ancora del brasiliano. Ma la vittoria porta la firma anche di Gigi Buffon, decisivo almeno in 3 occasioni, a dire no agli attacchi dei monegaschi. Martedì ritorno a Torino, sognando Cardiff e magari un nuovo duello col Real di Ronaldo. Max Allegri. Non era vero assolutamente che Higuaín nelle partite importanti non fosse capace di far gol. Stasera, tra l'altro, ha fatto gol nel momento più difficile. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Monte Carlo. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi ci ritroviamo per il nostro giro per l'Italia. Andremo innanzitutto a Padova per parlare di legittima difesa. Parleremo con Medici Senza Frontiere di questo problema che riguarda le ONG e i migranti, e poi ci occuperemo anche delle Cinque Terre, andremo sui temi del turismo. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione ci siamo occupati della vicenda migranti e ONG e ci torneremo tra poco. Ci siamo occupati di legittima difesa e anche su questo torneremo tra un attimo. Dell'ambulante a Roma morto durante il blitz di ieri della Polizia Municipale, dell'accordo firmato per i call center e per la rilocalizzazione in Italia. Ci siamo occupati di morbillo sul quale torneremo più avanti. Siamo occupati anche della regina Elisabetta e di Filippo, che vuole rinuncia il principe Filippo, il principe consorte, a tutti i suoi impegni pubblici. No, non credo, come scrive un ascoltatore, che sia stato fatto perché la regina Elisabetta vuole anche lei il suo Macron, per così dire. No, non crediamo proprio davvero. Solo un paio di risposte. Innanzitutto a Mauro da Modena, che ci scrive via SMS, che dice che ha avuto il morbillo, varicella, rosolia, orecchioni negli anni 60 e ancora qui senza il vaccino. Le ricordo che negli anni 60 c'era una media di morti per morbillo tra le 70-80 persone, 100-140 persone l'anno, questa era più o meno la media. Il morbillo è una malattia che può uccidere, le complicazioni del morbillo possono uccidere ed è per questo che ci si vaccina. Non è che la nostra esperienza passata, la nostra singola esperienza passata di noi personale ci deve portare a fare delle scelte sbagliate o avere delle idee sbagliate su questo fronte. E voglio dire agli ascoltatori che ci scrivono e ci dicono ragazzi, non salutate solamente, cioè non, perché citate solamente quelli che sono all'estero, gli ascoltatori che sono all'estero? Beh, li citiamo perché come dire, ci fa piacere in qualche modo che cerchino manchino un pizzico d'Italia nell'ascoltare questa trasmissione da fuori, anche da luoghi molto lontani, ma vogliamo molto bene anche a quelli che ci ascoltano da Acerra, Sesto San Giovanni, Volta, Reno di Argelato, ne cito solo alcuni di quelli che mi hanno scritto, così come quelli che ci ascoltano dai furgoni mentre stanno lavorando. Vi vogliamo bene. La nostra pagina Facebook, dalla quale andiamo anche in diretta video, è in linea con noi Luiginio Maria Martellato, che è avvocato di Franco Birolo, titolare di una tabaccheria nel Padovano. Birolo, che il 25 aprile del 2012 sorprese uno sconosciuto all'interno del suo negozio mentre stava svuotando il registratore di cassa, sparò mentre l'uomo stava salendo sulla sua auto, e al termine del primo processo di primo grado Birolo è stato condannato e poi in appello è stato assolto. Avvocato Martellato, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Allora, qualche ascoltatore ci scrive proprio sulla nostra pagina Facebook, Enzo ci dice: alla fine sulla legge sulla legittima difesa non è cambiato nulla. Che cosa le dice la legge approvata oggi dalla Camera dei Deputati in prima lettura, poi dovrà passare al Senato, che ha questa cosa che ci ha lasciati un po' perplessi tutti, cioè il fatto che eventualmente si possa reagire solamente di notte, perché lascerà uno spazio ad interpretazioni giuridiche di tutti i tipi. Però prego, Martellato, la sua idea. Sì, la vicenda analoga a quella del caso, sembra proprio un caso scolastico, quello che è capitato proprio al mio assistito, è capitato proprio in un contesto del genere, di notte, un'effrazione, quindi allarmi, ingresso e quindi intrusione da parte di più persone, tutto quello, diciamo, che mi pare con questa modifica, con questa che si sta tentando di fare, portando, cioè il turbamento, viene valorizzato quel turbamento che uno ha nel contesto in cui uno si viene a trovare in quella situazione. È chiaro che se vogliamo perfezionare questa situazione con quella che è effettivamente uno stato di legittima difesa, sì, dobbiamo fare un passo ulteriore, perché sennò ci troviamo sempre di fronte a quello che è il problema, che lo vediamo tutti i giorni, i processi si fanno, infatti in primo grado c'era stata una condanna e in appello con sforzo, le dirò, abbiamo riuscito ad arrivare alla soluzione per dimostrare appunto che c'era stata questa situazione che consentiva appunto una legittima difesa a tutti gli effetti. Ecco Martellato, mi sembra di capire che lo snodo sia esattamente questo: lasciare un po' meno margini di interpretazione. Esatto. Cioè tu puoi anche decidere, per paradosso, che uno non può sparare mai al ladro che gli entra in casa. Probabilmente sarebbe ingiusto, tutto quello che vogliamo, però puoi anche deciderlo. Però non lasciare troppi margini di interpretazione, perché non lo so. Perché si prestano poi, come è avvenuto, come si vede, come si legge tutti i giorni, si sente tutti i giorni, che poi la discrezionalità, perché bene o male non dimentichiamoci che ogni caso fa la sua storia, quindi se c'è un margine di valutazione di discrezionalità sul punto, cioè stabilire quando si può ritenere che ci sia stato questo turbamento psichico, quando si può ritenere che effettivamente ci sia stato cioè l'intrusione notturna, ma che abbia creato quelle condizioni di aggressività e di pericolo tale da giustificare. Siamo su un piano che diventa troppo discrezionale. Sì, ed è lo stesso concetto di notte che è un po' particolare, perché non lo so, sono le 6 del mattino e c'è la luce, ma piove a dirotto. Giustamente. Certamente. Perché agganciare la notte col fatto del turbamento, questo è il punto. Perché è più facile che ci sia una situazione di allarme, eccetera, se il fatto avviene di notte, ovviamente, che non di giorno. Anche che non è vero, perché sappiamo benissimo che un'intrusione anche giornaliera può avere gli stessi effetti, non cambia assolutamente. Sì, poi dipende se uno sta facendo il riposino pomeridiano, tanto per fare un esempio. Ascolti Martellato, come sarebbe andata a finire la vicenda del suo assistito con questa nuova legge? Lei è riuscito a guardarla abbastanza a fondo da poterlo dire? Ma io le motivazioni della sentenza non sono ancora della sentenza che ho tenuto in appello, le dirò che con questa nuova legge praticamente è quello che secondo me i giudici dell'appello hanno ritenuto. Forse quella sentenza che noi andremo a leggere quando verrà depositata la motivazione porterà in luce proprio quelli che sono i concetti che questa, diciamo, modifica sta tentando di apportare alla norma, perché si è arrivati proprio a questo, cioè quello che ho tentato di dimostrare io, che lo stato psichico del soggetto che si trova di notte in una situazione di particolare stress emotivo a far sì che la reazione possa essere più che giustificata e possa quindi essere scriminata dalla legittima difesa. Questo è il punto. Quindi, per essere brevi, Martellato, mi scusi che abbiamo un altro ospite in attesa, importante su un altro argomento. Forse il suo assistito si sarebbe risparmiato la condanna in primo grado? Forse sì. La ringrazio. Forse sì, avrebbe avuto, diciamo, più chance, ecco, diciamolo pure, con una normativa così. La ringrazio, grazie Luigino Maria Martellato, avvocato, come si diceva, di Franco Birolo, titolare di una tabaccheria che nel 2012 uccise un ladro di 19 anni. Stefano Argenziano, coordinatore delle operazioni per Medici Senza Frontiere, buongiorno, benvenuto ai nostri microfoni e mi scusi per l'attesa. Buongiorno a voi. Il tema è sempre quello, ci stiamo tornando praticamente quotidianamente ormai, ed è quello delle dichiarazioni del procuratore capo di Catania Zuccaro, che poi ieri è intervenuto anche in commissione difesa per chiarire esattamente qual è la sua posizione. Le cronache di oggi ci raccontano che il CSM dice che sostiene Zuccaro per il fatto che deve fare le indagini, ma i PM devono mantenere un po' più di riserbo su certi elementi. Ieri Zuccaro ha citato, nel parlare dei rapporti tra ONG e trafficanti di uomini, ha citato alcuni rapporti di Frontex. Mi sembra che su questo voi abbiate una posizione molto dura anche nei confronti di Frontex, Argenziano. Allora, la situazione è molto semplice. Noi ci auguriamo che la magistratura, il procuratore Zuccaro o chi per lui possa svolgere le necessarie indagini, le necessarie investigazioni. Ci auguriamo che tutto possa essere chiarito nei tempi più brevi possibili, che si verificano le responsabilità di uno degli altri, se e quando qualcuno dovesse aver sbagliato. Dovrà rispondere di fronte a una giustizia, evidentemente. Per ciò che riguarda Frontex, di nuovo, tutto incominciò in dicembre con un primo rapporto, le iscrizioni su un primo rapporto di Frontex che fu circolato e ripreso da alcuni giornali. Non conteneva niente, lo ripeto, non c'era nessuna prova, non c'era nessuna circostanza fattuale che potesse indicare una colpevolezza da parte di alcuna ONG. Abbiamo incontrato il direttore esecutivo di Frontex, il signor Fabrice Legeri, a Varsavia, quartier generale dell'agenzia, poco meno di 3 settimane fa, che ci confermò in quel momento che non avevano in mano alcuna prova, alcuna evidenza per poter presupporre una collusione qualsiasi tra ONG e scafisti. Ora assistiamo a una nuova indiscrezione che emerge dai media. Non possiamo che ritenere che si tratti probabilmente di una replica di ciò che abbiamo già assistito, a cui abbiamo già assistito alcuni mesi fa. Contatteremo evidentemente Frontex chiedendo loro di fare chiarezza, se esiste un nuovo rapporto che lo si renda disponibile agli inquirenti. Come mai queste cose vengono riprese dai media ci lascia alquanto. Sì, lei dice le trovo questi rapporti, li trovo la mattina sui giornali, escono come rapporti riservati e Frontex deve dare qualche chiarimento da questo punto di vista. Frontex lo chiarisco agli ascoltatori, che non lo sapessero, Frontex è l'agenzia, diciamo, che sarebbe di gestione delle frontiere europee e che non opera sostanzialmente i salvataggi in mare, fa altro, però insomma fa questo. Prego, Argenziano. Sì, soprattutto ci stupisce la tempistica di tutto ciò. A poche ore di distanza dall'audizione del procuratore Zuccaro, che fondamentalmente dice non ho niente, poco prima di lui il procuratore di Siracusa dice e conferma non esiste alcuna prova fattuale che metta in relazione le ONG con i trafficanti di esseri umani, e a bomba il mattino dopo appare nei media una nuova indiscrezione di questo tipo. Ci stupisce questo tipo di tempistica, quasi a voler rilanciare un'attenzione che, lo ripeto, ancora una volta guarda nel senso sbagliato. Che piaccia o no, parliamo di vite umane che vengono perdute in mare, che parliamo di sofferenze che dovrebbero invece essere al centro dell'attenzione, non le polemiche giudiziarie. Le polemiche giudiziarie dovrebbero svolgersi sotto forma di indagini nei luoghi e nelle sedi appropriate. Quindi io credo effettivamente che sia necessario che ognuno torni a fare il proprio mestiere. I procuratori che facciano la giustizia, i politici facciano i politici, e gli umanitari come noi possono fare il proprio lavoro di medici, di infermieri e di umanitari. In 30 secondi, Argenziano, voi escludete che ci possa essere qualche, aperte virgolette, mela marcia? Perché chiariamo, Zuccaro ha escluso esplicitamente voi e altre grandi organizzazioni da ipotesi di questo genere. Escludete che ci possa essere qualche mela marcia, per così dire, che lavora nel Mediterraneo in questo modo? No, guardi, io credo, in 30 secondi posso dire, non bisogna fare confusione tra gli individui e l'azione umanitaria. Dobbiamo proteggere l'azione umanitaria, perché l'azione umanitaria è un atto meritorio che salva vite umane. Chiediamo che siano invece gli stati a scendere lì dove è necessario per soccorrere vite in pericolo. Cioè, lei dice ci tiriamo indietro volentieri se arrivano gli stati, un po' come si fece con Mare Nostrum. Assolutamente, noi stiamo occupando un vuoto che è stato lasciato sguarnito dal ritirarsi della capacità statale. Avremmo tutto l'interesse a che il governo, i governi europei, non solo quello italiano, ma soprattutto gli stati membri dell'Europa, riprendessero in mano una responsabilità fondamentale, che è quella di gestire il mare che circonda le frontiere europee. Quindi a questo punto non avremo alcun problema a tornare a fare altre cose altrove, insomma. Grazie Stefano Argenziano, coordinatore delle operazioni per Medici Senza Frontiere. Ci fermiamo, c'è una pausa. Andiamo come sempre a sentire cosa succede sui mercati e poi riprendiamo il nostro giro per l'Italia, andremo in Toscana anche qua per parlare dei casi di morbillo, e poi c'è questa vicenda terribile, dolorosissima, di una bambina di 14 mesi che ha perso la vita in un incidente stradale, si è appreso che non era sul seggiolino, e i dati su questo fronte che arrivano in generale dall'Italia sono molto preoccupanti su quanta gente usa il seggiolino in auto, e poi succede quello che succede. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, i nostri titoli: i migranti, la Guardia Costiera dice soccorrere un dovere, le ONG ci aiutano, dal CSM sostegno alle indagini di Catania, ma anche un appello al riserbo. Legittima difesa, primo via libera oggi alla Camera dei Deputati, nella legge il diritto a sparare agli aggressori, ma solo di notte, ora tocca al Senato. L'ambulante morto a Roma durante il blitz, si indaga per omicidio colposo, la comunità senegalese manifesterà domani. Per i call center, firmato ai 13 committenti principali, il protocollo per la rilocalizzazione in Italia, almeno l'80% dei servizi, delle chiamate, dovrà essere effettuato nel nostro paese. Annuncio da Buckingham Palace, stop a tutti gli impegni pubblici per il principe Filippo, consorte della regina. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto Giorno. Ed eccoci di nuovo, siamo sempre in diretta anche sulla nostra pagina Facebook, www.facebook.com/effettogiorno, in diretta video se ci volete vedere per quest'ultima parte della trasmissione. Poi ci sarà come sempre America 24. Iniziamo in questa parte del nostro giro per l'Italia dalla Toscana, siamo in linea con Stefania Saccardi, assessore alla salute, che torna da noi. Bentornata assessore. Salve, buonasera a tutti voi e agli ascoltatori. Perché in una giornata nella quale viene raccontato che i casi di morbillo in aprile sono quintuplicati rispetto all'aprile dell'anno scorso, l'allarme in particolare sembra venire da voi, dove nell'ultima settimana sono 5 bambini in età prevaccinale, quindi non potevano essere vaccinati, che sono stati ricoverati, no? Sì, è vero, sono stati ricoverati al Mayer 2 con episodi di polmonite. E chiaramente i bambini non avevano l'età per essere vaccinati, ma evidentemente hanno contratto il morbillo da forse fratelli o genitori, comunque da persone non vaccinate, quindi questo comunque riporta all'ordine del giorno il problema delle vaccinazioni anche sul morbillo, anche sul tema del morbillo, che è aumentato in modo pazzesco in questo ultimo periodo. Che segnali ricevete dal territorio su questo fronte, Saccardi, ma proprio dalle ASL, cioè che cosa vi dicono? C'è questa riduzione così netta anche negli ultimi mesi, anche a fronte di questo nuovo allarme? Sì, purtroppo sì. Al momento i dati che abbiamo non ci segnalano un'inversione di tendenza, anzi, Stiamo finendo di raccogliere i dati e quindi ancora non ho elementi di certezza, ma purtroppo il rischio è che siamo non sotto il 95%, ma sotto il 92% sulle vaccinazioni. Quindi la soglia di guardia è ampiamente sotto, quindi questo ci richiama naturalmente ad una campagna di informazione, ad insistere sulla importanza e sulla necessità delle vaccinazioni, anche perché i casi che si stanno verificando di morbillo, quindi di una di quelle vaccinazioni cosiddette raccomandate, non obbligatorie, ci richiama ad una campagna molto forte perché si vaccinino tutti, compresi gli operatori sanitari, che purtroppo sono quelli che in questi giorni hanno di più contratto la malattia. La ringrazio. Grazie Assessore Saccardi, Stefania Saccardi, Assessore della Salute della Regione Toscana, per essere stata con noi. E prima di chiudere, una storia che è molto dolorosa in realtà, è la storia di una bambina, ho detto i 14 mesi, prima in realtà una bambina di 16 mesi che ha perso la vita a Cantù e siamo in Lombardia, morta in ospedale dove era arrivata in condizioni disperate. È avvenuto in un incidente d'auto, alla guida c'era il padre che evidentemente adesso si maledirà, il dolore di quest'uomo è inimmaginabile, a quanto pare però la piccola non aveva il seggiolino. Gli ultimi dati sono i dati del 2016 rilevati dal Ministero della Salute, ci raccontano che 4 italiani su 10 non usano il seggiolino per i bambini. Rosanna Ferranti è direttore della divisione della seconda divisione del servizio polizia stradale. Ferranti, buongiorno, benvenuta. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, è ancora così forte il problema? Io devo dire la verità, da padre, io, dato che l'ho sempre usati i seggiolini, mi stupisce pensare che così tanta gente non li utilizzi. La proporzione ancora la consideriamo grave, considerando che nel 2016 la Polizia Stradale da sola ha rilevato più di 102.000 infrazioni alle norme sull'uso dei sistemi di ritenuta a bordo del veicolo. Il 4% di queste contravvenzioni sono state fatte a carico o del conducente o di chi esercita la potestà genitoriale a bordo del veicolo per illeciti connessi al cattivo trasporto della persona minore. Il che vuol dire che ancora 4 infrazioni su 100 riguardano il modo di trasportare le persone alla fine più deboli, che neanche possono scegliere volontariamente di dire voglio rischiare la vita. Certamente, quindi il segnale negativo, no? Qua si può agire da una parte, naturalmente io direi soprattutto con l'informazione oltre che con la sanzione successiva evidentemente, però a volte la sanzione arriva quando è troppo tardi. La sanzione è effettiva perché suppone il fermo del mezzo, il controllo da parte dell'operatore di polizia delle condizioni in cui si stanno effettuando i trasporti dei passeggeri a bordo, ma direi che serve innanzitutto un'attività di educazione ai rischi, soprattutto all'interno dei centri abitati, dove invece c'è un calo di attenzione degli adulti rispetto al modo sicuro di trasportare bambini. E quindi si ritiene che le basse velocità della città possano giustificare il venir meno dell'utilizzo della cintura, mentre il corpo del bambino viene scagliato violentemente verso l'ostacolo costituito in genere dal sedile anteriore su cui siedono gli adulti per il semplice effetto di una frenata brusca, perché il bambino stesso per primo non è in condizione di trattenersi né ha un corpo in condizione di resistere, certo, all'urto tanto quanto una cassa toracica sviluppata di un adulto, ed è lesivo della salute anche per un adulto viaggiare in città senza cinture. Questo è ovvio, questo lo sappiamo. Ma il pericolo è di gran lunga superiore per il minore. La ringrazio, grazie a Rosanna Ferranti, direttore della seconda divisione del servizio di polizia stradale. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede, cosa ci racconta, cosa succede sulle strade, poi cosa ci racconta il nostro Mario Platero, che ci parlerà soprattutto di riforma sanitaria. Ci risentiamo alla fine per i saluti, come sempre.